Mazar dan Hussein tiba. Thank you. ma se lo vuoi tenere lo prendo da qualche altra parte. Problema, io sono interessato, però dimmi tu, se diciamo c'hai dei ripensamenti non c'è problema, tu me lo devi dire, tutto lì. Scontate le esibizioni comprate, lo fate fare ascolto e vi divertite. Cava cava. Tu non è Antonio di Cevittori? No, niente, lui deve una cosa, io non sai cosa c'ho. Il dolben, c'è il fuori uccio e basta, non c'ho altro. E poi ho fatto la riamplificatore per lo stereo. Non c'ho altro, ho girato da uno, mi ho prestato mio fratello. Io mi stai facendo le tasse, cazzo. Mi ha toccato a bocco, io. Non l'avevo riparato, ma è usato la verità. E poi andiamo come devo sempre, ma pompa, cazzo, pompa. Infatti sono buoni come modelli. No, no, vabbè, se sono problemi con Gianni, già chiedo un'altra persona che non devo... Ce la faccio, io a voi la prima di dicembre riesco a avere il tanto per acquistarlo, capito? E se nel caso Gianni non c'è problema, chiedo a qualche altra persona. Un ricevitore, 0030 KF, e io sono a postissimo. Senti, come da un coso, ma... Guarda la 30, 300 euro, c'è gente che sta prendendo il 6, il coso, il 140, piglietelo, uno. Ti sei sovramodulato già, non ho capito. Sovramodulato, non ho capito bene, dimmi tu già, come vuoi tu, io sono nelle tue mani, decidi tu. Un 140 dove non gli hanno messo le mani addosso, Antone, dove lo trovi? La maggior parte sono tutti scacciavitati, diciamo la verità. A me interessa sì, prenderlo come si deve, pagare il giusto prezzo, ma prendendo una cosa che funzioni perfettamente, ecco, qualità, prezzo. Vabbè, quello sì. Non so, boh, non so dirti. Chiedi. Mi sembra ce ne sono un paio di 140 che stanno vendendo, poi sono passati la cibina dei mattoni, quindi non se ne fanno un accidente, ce li stanno vendendo. E guarda, alla fine, per non rischiare, sinceramente, perché poi giustamente in quelle frequenze non ci puoi modulare, c'è poco da girare, se poi uno vuole rischiare fa il pirata e modula ugualmente, alla fine, ce ne sono tanti canali. E dunque ogni tanto una scattiata si può fare, ma sinceramente non mi interessa. Faccio prima a trovarmi un ricevitore, solamente il ricevitore, dunque giustamente che non trasmette, almeno sono sicuro che se acquistando qualcosa che funzioni nessuno si è divertito dentro, capito, alla fine. Almeno compri con la garanzia di quello che dell'acquisto che stai facendo. Sono un ricevitore e basta, l'attestato ce l'ho dunque. Perfettamente in regola, mi va bene anche così. Ah, vabbè, se ti va bene così, Boh, vedi tu. Io... Un momento. Permetti come abbiate un apparecchio che avete fatto tutto se l'abbiate in Napoli. Poi, al momento magari che gli avuti abbiate il patentino, lo fai altro che... Accende la pallaccia. Nessuno ti viene ad usarlo, in eccezione. Sì, beh, quello pienamente d'accordo, basta che non trasmetti, togli il microfono, ci metti un tappo lì nell'attacco e va più che bene, sei tranquillo, ecco, di ascoltare senza problemi. Poi vediamo un po', che bene o male, come dice tu, 140, un 300 euro minimo, già riesci a trovarlo, ma sperando che sia in ottime condizioni, ecco. Già si trova, non ti preoccupare. Avanti Gianni. Ah, ma picchio la bufo. Ciao, sciabufo. Ma picchio la bufo, la vuoi? Avanti Luca. Di Max c'è questo simpatico programma e fa un bel ridere, Man vs Food, tu dovresti partecipare lì. Vabbè, non voglio mettere schifezze, no? Non lo metto in dubbio, ma secondo me è abbastanza simpatico come personaggio. Dunque, si sfida nel mangiare, tu andresti bene quel programma. Vabbè, certo. Ohia, che casino, va. Che sei abbastanza di buon umore, ero da un po' senza sentirti ridere a Gianni. Più in coso ieri sera, in carbonato vero ieri sera, se no trovo lì, lo faccio come la mazzola. Che hai che esce veramente bene confronto agli altri. Ma tu ci credi, non c'è solo quattro canali. Hai capito perché male. Ma no, assolutamente, guarda, esci veramente bene. Poi, giustamente, chi se ne frega tutti se c'è pochi canali. Ci troviamo in un unico canale tutti insieme e il problema è risolto, non è che ci vuole poi così tanto, no? No, guarda, ci mettiamo l'ascolto, non è contro uno. figlio mio, papà te ne ho due se ne vuoi, su tutti i 40 canali, se le nostre sistemi è così, si è a posto. Già ci accontenta di poco, basta murmurare alla fine, vedi, vabbè, pom pom, adesso c'ha le vitamine, e adesso si deve fare il Barroso. No, non sto facendo il Barroso, sto usando così 80 io, non ho bisogno di sanguinare se vuoi, lo sai, è per farlo funzionare. Allora uso il 80 con 5 watt e porta come brucia un 31. Tanto come usavo, se non si guarda, non è neanche meglio, lo sai, e non mi volevo dare per sistemare il W2001 nel MK3. Che sto scartando, Antone. Avanti Luca, vende verso sfut. Io voglio arrivo da un parti, a parte come la radio, segnale come sono, con pochi vatti esco, Ora OSI 695, perfetto la radio, e guarda, sempre perfettamente squillante come l'hai sempre avuta da parte mia. Sai che tu sei forte e chiaro qua, perfetto, radio bella, limpida, va benissimo, alla grande, con voi una volta sei fortissimo, Gianni arriva un po' basso, avanti Gianni. Thank you. adesso ce l'avevo colpito in giro, con tutto dentro, a poco aperto, quante le voci non so. Comunque, per scopo informativo già, qualsiasi programma che ti serve, ce ne sono tantissimi su internet gratuitamente, non sei costretto ad acquistare programmi se ti manca qualcosa nel computer, eh. Se uno è bravo a navigare internet, riesci a trovare, te lo scarichi e ti metti tutto quello che vuoi. Poi quando vado lì a comprarli tocco, prendo quelli i più duri possibile, che sono più croccanti però sono sempre dolci, no, veramente un buon frutto, eh. E io mi ricordo che è uscito anche da poco qua in giro, hai notato, non esisteva, non ne portavano qua prima, per dire 10-15 anni fa. No, è roba uscita da poco, capito, poca roba, no, io prendo quelli più cotti, sono più succosi qui dentro, quelli più cotti prendo, no, quelli sempre duri, però quelli più, cioè quelli più colorati, arancioni, quelli sono buonissimi. L'ultima che sono mangiato era una fava, ma buono. l'ultimo pezzo. Ma che cane è l'eroe? Lo divido col cane io, e poi mi dispiace. Vai ascoltando sta. Da voi il melone? Luna, no? Ma lei la sta ascoltando. Sono buone le preghiere per avere lo spin. Qua, veramente buoni. Anche l'uva, Quella gialla costo, l'uva Italia, buonissima. Allora, quest'anno ho fatto una strage di tutto. Frutta l'ho guadagnato un bel. Ho fatto l'anno scorso? Il doppio, sono il triplo anche. No, pure la frutta già fa bene, la ci vuole, guarda, altro che carne alla fine. Stai anche meglio fisicamente. Avanti, Pompù. Sì, qua sogno. Devi dirmi tutti fa, facciamo qua, Pompù. Beh, quando farà Luca già te la fa venire dopo che hai mangiato 5 minuti fa, non ti preoccupare. Ho mangiato 2 minuti fa, una volta mi mangiavo con un PM degli anni 80, adesso non lo faccio più. Sono vecchio. E vabbè, e sei vecchio, sei sempre giovane. Vecchio è uno quando inizia ad averne bisogno di qualche altra. Dunque la più non sei vecchio. Comunque fatto sta c'hai i capelli all'epoca, sì. C'avevo i capelli e mi portavo una che cosa fino quello frizzante rosso buono in ospedale, figurati, un filo della via rapata in Gabriele, c'è poi mangiava anche il tonno, poi c'è la storia che c'è proprio la rossa va. Scusami, stavo saldando. Salda avanti Gianni di muro. Fare le automedie dovrò parlare a chenare dopo, di così quale lui mangia panella, ma biscotti al latte che ti dà su buono lo stesso. Allora ci portava un pisano brusco in ospedale, così è Antonello. Sì, è vero, non si faceva ballo. Mario e Marcia mi portava da brusco e i ravioli, figurati. In ospedale avevo ricoverato di fronte all'emiciclo, c'erano cioè all'emiciclo, ai giardinetti, lì in dermatologia. Più non portavano il vino, iniziavano in 5, in questa ragazza avevano 5 litri di vino, da brusco, quasi mi beghi la notte. Quello giù, a primo piano, io lo faccio al secondo. A parte tutto che c'avevo già, il buco c'è un 31, il 39, e l'alimentatore lì, e la magnetica, la Detroit, piazzata lì, in amatologia, sono andato sotto 4 mesi ricoverato. Ah, un sacco di anni fa, ti parlo. Sono stato per una settimana, sono rimasto 3 mesi, mi sono fatto male tutto. Poi un giorno mi ha detto, cercavo di fare, stereo, ma così, cazzo ho cominciato a portarmi stereo di là, a riparare, allora mi sono detto a mamma, portami cacciavitti, salvatore, spagno, testa, questo va a riparare la rete, facciamo 10-20 mila di lari, figurati. Sì. Anche sicuramente così ammalato non lo era, ma volevo togliermi una curiosità ad Antonello, senza offesa giustamente, ma all'epoca avevi i capelli quando eri ricoverato. Ce li avevo sopra anche sotto. Quello stavo aspettando, Sei curioso? C'è infermiere, buone, c'è infermiere, di quelle apparato assunto, lo sai con l'infermiera che gli fanno fare il coso. Cazzo, le facevano a pezzi, le facevano. Cioè, a pezzi le facevano, altro me. Non è che non facevano fare, cazzo, allucinate, facevano toccare il pisello a uno, cosa un altro, mamma mia. Andiamo bene, ma almeno già all'epoca c'era un Don Giovanni, dai, sa quanti infermieri, è vero, ma lo sanno. C'era un infermiere di Ussi che chiamava un infermiere, un attore, ci metteva la crema, non con la mano, con la paletta sembrava messa la crema. Nettavano il fronte, che ti facevano il fronte primo e secondo grado. Dopo due giorni, dovevi metterci quattro giorni di crema base e infestati la pelle. Solo se non era morto. Ma cosa usava? La paletta per il cemento? Sì, te lo sto dicendo. Ah, gli usi questo, mi fermavo gli usi. Questo non lo vedo, non te ne puoi. No, non mi metto, non lo metto io. Beh, diciamo che all'epoca la maggior parte degli infermieri erano tutti ossesi, c'era una magagna all'epoca impressionante, siccome c'erano molti dottori ossesi, dunque parenti, amici, la maggior parte erano tutti ossesi negli ospedali, nei principali ospedali di Sassari, e poi fortunatamente questa malia è finita, entrano i più meritevoli alla fine, per carità. Avanti, capri 2. In ponte, paese e Aosti ce ne sono un po', la verità, dovrei fare una ricerca, no, proprio questo paese no, ma ne ho conosciuto tantissimi altri, ma ripeto e confermo che non hai detto sbagliato, più del 90%, non è poco, erano tutti ossesi in ospedale, chi infermieri, chi portantini, chi e compagnia bella, confermo, era una cosa impressionante, giustamente anche a Porto Torres. Adesso ripeto, fortunatamente è finita questa, diciamo, questi calci nel sedere, ecco, da parte degli ospedalieri. No, non riesco a punta di usi. No, la verità, non riesco a mettere a fuoco questo paese. Sicuramente avrà buoni 50 anni, vero? Sicuramente sì, 50-60 anni. Sì, più di 70 me lo dai, buono. La figlia è quella che c'è di molto vicino, vicino alla ferramenta di Andrea. Non hai capito di tutto parlato. E il figlio, diciamo, lo fa sempre il figlio una volta. sì, memorizzato. E la vetta l'ho visto una settimana fa in giro, a piedi. Di usi, tissi, usini, sozzo, non ne parliamo, essendo lì. Il proprio infermiere no, ma immaginati fosse stato un dottore, e che dottore? Ginecologo volevi rispondere, Antonè. Diventerò un ginecologo. Chi mi aveva fatto il sogno a quell'ora? Già, quando ero piccolo, siamo 15 anni, allora non c'era il problema di fare il corso di infermiere. Potevi stare tranquillamente per attraversare, cioè lì c'avevi tuo padre e c'avevi la mattitura automatico. Però aveva sapere babbo, dice, non c'era niente, ho detto, lui mi cade scemo, gli ho detto, come da un cazzo. Ah, ma come sono, se tu vedi tu, le pentilate, invece mi sono pentito davvero. Questo è stato, per dire, mancavo al limite 10-15 anni per la mia pensione, è stato via la, come adesso, c'è da come la prima, come adesso, è totalmente cambiato. Ormai il manicomio non c'è più, hai capito? Solo che per me era, sembrava un coso, non uno strano, un carcere era, perché la cittadella autonoma. Facevano tutto la pane, passava la pacca, facevano tutto, non usciva mai il suo, usciva solamente per fare la spesa e comprare la farina, il sugo, quello che correva, hai capito? Come potevo dire. Io mi ricordo che avevo fatto un addirittura uno sciopero, avevo sequestrato il direttore e avevo dato 3 mesi di carcere e comprese altre 56 persone. Figurati. Ma il comune non c'è più, c'è solamente le strutture, ho fatto a posto di andare adesso a San Camillo a fare le visite per l'invalidità e le fa lì al manicomio. Ci sono le case già che hanno strutturato e quindi fa tutto lì adesso. Era molto particolare, facevano 12 ore di servizio mio Gianni, non ne facevano 6 ore e 40 come adesso, facevano 12 ore al giorno, che era una cosa impressionante, stavi rinchiuso, di tutto c'era, di tutto lì. Poi c'era un casino, è successo un casino quando lo eliminavano, c'era gli infermieri che si violentavano le pazienti, che hanno avuto anche i figli, che hanno buttato addirittura i neonati morti lì. E pare che cosa sono successe lì in quell'ospedale là. mi stavo alzando adesso per andare in bagno a sciacquare le olive. Figurati tu, c'è anche gente intelligente, perché ne ho visto gente strana là. Figurati, comunque me lo mangiano, era un lager quello, non era un ricovero, un lager, rimanevano nudi di lì in pieno inverno e piena estate, un casino era. Poi donne violentate c'erano anche, gli infermieri, i bambini che li nascondevano mezzo sotto la terra. C'era parecchia gente che, dicono che sono infermieri che sono morti, che hanno, ci sono parecchie cose, capito? Che sono state nascoste, quindi. Allora così, adesso i tempi sono cambiati. Un amico stasera che è vero che Obama, dopo che è stato rieletto, dice che ha messo in mano la Sardegna dicendo che è la regione più povera, diciamo, d'Italia, e l'America vorrebbe acquistare la Sardegna. Ma è vera questa storia? Questo amico dice che l'America vorrebbe acquistare proprio la Sardegna intera e costruire, non so, diverse indute per dare lavoro, perché siamo i più massacrati nella regione italiana. Pienamente d'accordo, ma se veritiera questa storia, guarda, la gente pur di morire di fame, guarda, lo farebbe volentieri, guarda, arrivato a un certo punto. La cosa che mi dà più fastidio, siamo quattro gatti, porca accidente, e non ci si può mettere d'accordo tutti insieme per andare avanti uno con l'altro senza essere sottomessi da nessuno. La gente è abituata, secondo me, troppo a essere comandata. Se non c'è un leader, non riescono neanche a pulirsi il sedere. Quella è purtroppo la situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo dipendere più dall'Italia. Beh, è arrivato a un certo punto, se l'America si compra la Sardegna, no. dovremmo diventare come la Corsica. Diciamo che la Corsica non fa parte dell'Italia. Guarda, arrivato a un certo punto ti puoi aspettare di tutto. Adesso c'è il divisore acceso, un po' distante dalla camera dove sto modulando, ma se non ho capito male l'Alcoa deve chiudere. Dimmi tu in quale guaio ci troviamo, porca miseria, ti fa veramente pensare. Quanti anni sono queste povere persone che stanno lottando per mandare avanti la famiglia, un sacco di lotte, di gride, di disperazione, e poi lasciati morire come topi. Guarda, impressionante, guarda, veramente paurosa la situazione. E quello è il discorso, è una vita lavorando in un'industria. Non lo so, che altro lavoro puoi fare? Falegname non l'hai mai fatto, mobiliere non l'hai mai fatto, autista, hai sempre lavorato nell'ambito dell'industria. Quando sei pure da lì a 50 anni, chi ti prende più ormai? Sei già non vecchio, travecchio, perché invecchi abbastanza in fretta nel reparto lavorativo, cioè dopo i 30 anni non servi più, sei già vecchio. Dimmi tu, come fanno queste persone? E quello è il succo della situazione. La gente si deve organizzare tutti insieme, tirarsi le maniche, mandare a fanculo queste persone, iniziare ad autogestirsi in piccoli gruppi se non vuole andare avanti, così non risolvi nulla, aspettando che qualcuno ti dia il lavoro, perché la gente è abituata a quello, che ti diano il lavoro, i politici, capito com'è la situazione? Meglio così, a noi facciamo le fabbriche della Chrysler e qui ce le vendiamo, capito, l'Italia. E poi ci mettiamo tutte le prostitute che abbiamo, brasiliane, mettiamo tutti in Costa Smeralda e gli americani vengono qui a trombare. Sì. Sinceramente, per come mi hanno detto, niente, proprio comprarsi in l'intera Sardegna, così mi ha detto questo amico, poi non so se è una cosa veritiera, ma non mi dispiacerebbe, divorzio e mi prendo una bella americana, perché no, di colore giustamente. Sì, ma lì forse sta parlando di livello industriale, forse sta parlando. Adesso mi stai ricordando una cosa, ti ricordi a Gheddafi si vuole comprare la Sardegna, la stessa cosa, che non è mai successo. Sicuramente forse che sia per il fatto dell'industria, non lo so, però per informarmi meglio, siccome io sono da un po' di tempo che non guardo il telegiornale, perché alla fine è solamente pieno di tragedie, invece di darti un po' di allegria ti dà sempre ogni giorno una pugnalata, nel reparto psicologico l'ho mandata a fanculo il telegiornale, il giornale, giornali e compagnia bella, voglio vivere nel mio mondo. Cosa vieni che metto le dice di vite, che tanto c'è il fiume Santo lì vicino, a voi a corrente, ma vabbè, se non ti ricordo il passo in corretti scendiamo a limite domani, ci stiamo stati liberi tutti e due, buon proseguimento, io non ci preoccupo che stiamo a comprare gli Stati Uniti di Sardegna, perché gli Stati Uniti si sono messi in curva poco con l'Alcoa, quindi è inutile che ci vengano quando fanno proprio, a meno che non sia perché abbiamo ho risparmio il gas naturale, solo per quello. Capito? Sono proprio ho risparmio pieno di gas naturale. Basta che ci vanno i vivi e noi ci mettiamo a vendere gas, altro di gas nigeriano. Quello c'è, è vero, è vero, campesino, abbiamo un sacco di risorse e non le sfruttiamo noi che ce le abbiamo sotto i piedi. Purtroppo è così. Da solo giustamente non puoi fare niente. Tutto lì. Va bene Antonetti, ti auguro buonanotte. Ci sentiamo alle prossime, mi sa che anch'io chiudo, dai, nel caso ci sentiamo domani in questo canale o in qualche altro, anche sul 5, non c'è nessun problema. Alla fine sì, l'euro e viene il dollaro. Vabbè dai, invece di avere Fiat avremo Ford e compagnia bella, dai, cambiamo anche i modelli di macchina. Adesso vedi tu, anche a Cagliari, per dire, c'è un'azienda che produce la Coca-Cola, giustamente, a quanto pare deve chiudere anche quella, dimmi tu, perché anche lì purtroppo è diminuita la produzione di questa bevanda, perché la gente adesso a quanto pare ci pensa due volte, dunque per me, per spendere sul di Coca-Cola mi prendo le bottiglie dell'acqua, dunque la produzione è diminuita. E a quanto pare ci sono anche licenziamenti lì in questa azienda e dovrebbe chiudere a Cagliari. Arrivato a un certo punto, cosa ci rimane in Sardegna? Niente. Mi sa che continuiamo così, incominceremo a scornarci uno con l'altro. Questo qua è un bellissimo discorso, è abbastanza pensato. No, il discorso è secondo me che, sì, pienamente d'accordo, ci sono alcuni, non uno, ma più di tanti, persone veramente potenti che noi neanche conosciamo, che veramente tirano loro i fili. Sicuramente sono accorti che negli ultimi 10 anni fa, per dire, la gente si era talmente arricchita, allora dunque no, così non va bene, adesso iniziamo un po' a diminuire la situazione. Poi vedrai che poi la fanno riprendere loro quando vogliono loro. Se per adesso, guarda, sinceramente, miglioramenti zero, anzi, sempre disperazione da una parte all'altra, ed è veramente brutta, porca miseria. E ti trovi anche a rimanere solo perché la gente è talmente presa male che non ha più voglia neanche di comunicare e neanche di uscire da casa. Vedi un po' pure come si vive. Purtroppo è così. Sì, c'è una bella manipolazione. Arrivato a un certo punto, non capisco perché tutte queste promesse, questi soldi che ne cagano da una parte e dall'altra, scusando la parola, e ancora siamo peggio di prima. E così, e te ne sei accorto anche che anche gli studenti stanno protestando, non ce la fanno più, vedono già loro che l'indomani e il futuro non ne avranno mai, su che vanno a protestare e vengono massacrati, guarda, è veramente allo spaccio la situazione. Siamo quattro gatti, porca accidente, siamo veramente quattro gatti, quelle poche indute, ma veramente poche, che possiamo contare sul palmo della mano, porca miseria, non ce n'è rimasta più una. Oh, dimmi tu come uno può andare avanti. Ormai la gente pure, adesso come adesso, nuova generazione, è abituata a zappare, nessuno gliel'ha mai insegnato, perché con la scusa dell'indulgenza si è abbandonata la campagna e molte cose non sono state mai insegnate. Dunque, quando veramente ti trovi in condizioni che sta prendendo di fame, ti prende la zappa e incomincia a zappare, quello ti esce, ti mangi, però la cultura in sé, la nuova generazione, di stare lì a lavorare la terra, non ce l'ha, perché nessuno gliel'ha mai insegnata, in terra ne abbiamo e qua da noi, se vogliamo andare avanti, ma è arrivato a un certo punto, non so proprio cosa dirti, guarda, non c'è nessuno sbocco. Cementi, anche loro sono messi a protestare, un sacco di promesse poi alla fine mai mantenute, e adesso hanno una proroga sino a dicembre per la cassa integrazione, dopo dicembre si arrangeranno, e anche loro purtroppo quanto pare la partita è persa, lì a scala di gioco è talmente vecchia l'industria, diciamo i macchinari che talmente sono arrugginiti, che ci vogliono una barca di soldi per rimetterle a posto e farla riprendere la produzione. Dunque alla fine, guardiamo in fondo, non è abbastanza conveniente. Dunque l'hanno abbandonato ormai, non serve più. Guarda, si studiano abbastanza bene le cose, porca miseria. Però se non, non so se ci è fatto mai caso, c'è sempre una uno o due guardie giurate che vegliano lì quel posto, eppure completamente spento. Sicuramente chissà quanto purtroppo dovrei pagare di tasse e alla fine non so come fa uno a sopravvivere, anche quello un po' di malessere della situazione, troppe tasse, porca accidente, troppe, alla fine cosa ti rimane? Non stai neanche lavorando per te stesso. Grazie. completamente, non c'è niente, no, non, c'è, non ci sono prospettive, no, si vede che proprio non c'è speranza, sembra che stia andando a farsi benedire. Sì, alla fine vedi, ti ingegni, cerchi di fare qualcosa sia per la tua famiglia, giustamente, e poi per dare un futuro ai tuoi figli, con tantissimi, non con tanti, prima erano tanti, adesso sono tantissimi sacrifici, e poi alla fine quel poco lavoro che hai le devi dare in tasse, mentre questi politici si ingrassano come dei maiali da ingrasso con i nostri soldi non sudati, super sudati, arrivato a un certo punto. Dimmi tu come uno può andare avanti, guarda, non ti mancano proprio anche, ti manca proprio anche la fantasia di costruire qualcosa che poi alla fine sei costretto a pagare, a non a pagare, a strapagare, porca accidente, quello è il problema. Dunque vedrai, ne sono più sicuro, una bella rivoluzione con i fiocchi, prima o poi sta per esplodere, guarda, per me ancora è questione di tempo, tu vedrai nel 2013 cosa ne esce fuori. Gente non ne passa neanche per la tincarna del cervello stare lì a votare, la maggior, più del 50% è stufa, non gliene frega proprio assolutamente niente, poi parla un po' di votazioni, cosa ne pensa, poi intanto un po' delle domande escono fuori così, o mi rispondono sempre la maggior parte, votare, non mi interessa proprio niente, non ci vado, non me ne frega niente, neanche pensando ci sto dicendo, sto pensando a tirare avanti per dare un futuro alla famiglia, poter votare, manco mi scomodo, dice. Antone. Qualche ovo, se non si può, che premio male, infatti, mi sa che bisogna fare dieta, è arrivato a un certo punto, perché più di così non si può. Guarda, mi l'unico modo per andare avanti, per fortuna c'è questo Lady Market, frutta e verdura, a 99 centesimi, pochissima roba italiana, maggior parte spagnola, sperando che sia almeno di qualità. 99 centesimi è Lady Market, è giù a Canica. E sarà come quello che avete a Ustra, stessa cosa. Sì, esatto, solo che a Ossi purtroppo lo spazio è abbastanza ridotto, dunque non c'è tutta questa vasta scelta. Invece lì giù a Canica, che è di fronte al Taniti o a Floor Garden, lì è molto molto più grande. Guarda, la mattina c'è tantissima di quella gente comprandosi frutta, che è una cosa impressionante. Guarda, se ti vedi la gente sta comprando solo frutta lì, ce ne riempie un carrello, vedi tu, a 99 centesimi il chilo. Dunque ha voglia che c'è un po' di via vai in quel posto, e se non vai presto la mattina non trovi più niente, arrivato a mezzogiorno. Sì, conviene lì, arrivato a un certo punto, ti aiuta un po' a andare avanti. Io adesso passerò la mia moglie, Antonello! Sicuramente non l'hai mai fatto. Nelle confezioni del latte, se guardi la parte del fondo, se l'hai mai notato, ci sono diversi numeri scritti, dall'1 sino al 5, l'hai mai notato? Nei brick del latte da un litro. Ma io compro del latte, però non ci faccio strada a queste cose, scritti numeri. Vabbè, batte qualsiasi contenitore che sia del latte. E ci sono da 1 a 5 numeri segnati e colorati di nero. Dunque, se c'è dall'1 sino al 5 non manca nessun numero, diciamo quel latte è stato lavorato una volta solo e confezionato. Se iniziano a mancare diversi numeri o dall'1 o dal 5 vuol dire che il latte, diciamo, ne ha avanzato una certa quantità, viene mischiato insieme all'altro latte fresco e ribollito di nuovo. Dunque può capitare che nella confezione non trovi per niente nessun numero scritto. Dunque questo latte, prima di essere confezionato, è stato ribollito 5 volte. Dunque alla fine si sta bevendo latte, ma con delle proprietà nutrizionali che sono andate a farsi benedire durante l'ebollizione, perché poi serve per tenerlo in lunga conservazione. E dunque devi stare attento anche a quello che compri, che sia terilate, che sia coapra, quello che ti pare ti piace. E ogni volta che l'acquisto, a uno lo controllo e vedo di trovare tutti i numeri dall'1 sino al 5 in serie, in modo da prendere almeno sperando il latte come si deve. Io ho fatto un caso ancora in queste cose, perché quando diciamo poi al supermercato, cioè non è che si guarda il prodotto, quello che stai dicendo, però un cliente che fa a fare la spesa non fa, se no Sì, pienamente d'accordo. Vabbè, un giorno già te ne parlo, ti passo un libro. E con calma te lo dici, te lo leggi e poi vedrai che se ci credi a quello che stai leggendo mi cambierai totalmente idea nel mangiare. Quando ci incontriamo già te ne parlo e te lo porto e te lo leggi con calma. Tutto l'altro non ti posso dire. E poi ti fai tu un 2 più 2. Prodotti di marca sinonimo di qualità, ma sinceramente dopo che ho letto questo libro mi vengono molti dubbi. Guarda, un po' di giorni fa stavo guardando Di Max, non so se lo guardi, e c'era questo Lavori Sporchi, non so se abito mai questo programma. Comunque il giorno c'era questa puntata in cui c'era questa persona che il suo lavoro era recuperare delle carcasse di mucche morte, di malattia o di vecchiaia morte. Anche dopo 3-4 giorni lì all'aperto, prendeva e caricava nel camion, lo portava in questa industria dove toglievano la pelle per usarlo come per cintole, vestiario, ecco. Poi l'animale veniva preso, macinato, anche morto 3-4 giorni pieno di vermi, lavorato, e da lì questa carne veniva ridotta in polvere. Questa carne di questo animale morto o malato di qualche malattia, morto di qualche malattia oppure di vecchiaia, comunque macinato, lavorato, portato in polvere, e poi questo mangime veniva dato ai polli che vengono allevati, diciamo, in gabbia, non giustamente in grandi industrie. Dunque, invece di dargli da mangiare semenza e compagnia bella, perché il pollo è vegetariano, gli davano questa polvere di carne preparata, diciamo, da quest'altra industria qua. Adesso dimmi tu, alla fine sei convinto di mangiare polli tranquillamente? Ne hai notato ultimamente 2 polli 3 euro, porca accidente, ma è possibile? Ma secondo te stai mangiando qualcosa di buono, arrivato a un certo punto? Noi abbocchiamo subito, ecco. comunque arrivato a un certo punto uno deve possibilmente acquistare da piccoli imprenditori, da piccoli diciamo commercianti che si coltivano loro la diciamo frutta e verdura, allevano i loro animali, pochi ma buoni, converrebbe comprare lì da queste persone qua, che possibilmente biologico, ma che poi di biologico secondo me non c'è rimasto più niente, basta solamente la pioggia che cade ogni giorno, immaginate tu gli scarichi che sono nell'aria, cosa poi, cosa riportano giù quelle polveri sottili che galleggiano e così via, ma tutta converrebbe comprare più da persone che ne allevano in casa e quel poco che hanno lo vendono qua. Allora sì che stai tranquillo che stai mangiando qualcosa di genuino. A Ossi, dove sei andato tu, e ho chiesto, ma togliami la curiosità, ma la maggior parte della carne che avete, diciamo, è sarda? Sarda, assolutamente no, dice, e noi la prendiamo una volta, uno o due settimane, la maggior parte della carne che vedi qua è tutta spagnola, eppure non so da quale parte arriva, comunque... la maggior parte tutta pure dice, perché i sardi dice non hanno la cultura di fare carne, non la fanno buona, dunque non riusciamo mai a venderla bene, siamo costretti dice, a comprarla da fuori, diciamo loro nell'allevamento hanno la cultura, gli spagnoli, per come sta dicendo questo macellaio, dunque la maggior parte tutta carne non italiana, non ti dicono niente, tu giustamente la compri a tua insaputa, dammi un chilo di fettine, convinto che sia diciamo di zona, ma scordatelo assolutamente. Thank you. questo c'è sempre il fatto finanziario, porca miseria, tra una cosa e l'altra c'è il viaggio, eppure gli viene a costare molto di meno, chissà quanto la pagheranno loro. E il discorso che dovrebbe cambiare un po' quella situazione, siamo, abbiamo tantissimi allevatori, sicuramente anche bravi che credono al loro mestiere, e ancora non abbiamo imparato ad acquistare sardo in modo da andare avanti qua, no, assolutamente, non gliene frega niente a nessuno. Tutti opportunisti, ognuno se ne frega dei problemi degli altri, l'importante è che lui stia bene. È arrivato a un certo punto così, o cambia la mentalità già, se no mi andremo sempre allo sfascio. E quello è quello lì, e così non dobbiamo faticare, quindi, hai capito, non ci dobbiamo affrontare uno che analizzi la roba. Poi facciamo la spesa, vieni a casa che comprato un chilo di carne a tre razze buona, si può mangiare, capito, non si mette in culo, allora. E poi dire quella roba, adesso siamo fatto queste cose elementari, ma anche in tante altre cose, come in tante altre cose, per esempio, come affiliamento, invece non dico che non si mette in culo, però sai già, sono le camicie comprate dei cinesi di quelli che ne sono in prodotto, che quando l'ha passeggiato c'è traudita oggi dal negozio, non c'è un affidamento, i ricatti sono molti quei cinesi, però l'altra roba non è pure, non è che io già devo uscire Antonello. Alla fine, giustamente, prima di acquistare bisogna sempre aprire il portafoglio e vedere cosa ci dice lui e cosa vuoi fare, bisogna adattarsi a quanto pare, con la cinghia più di così non si può tirare, toccherà dimagrire ancora di più, dai, alla fine. Va bene già, io ti ho fatto piacere fare una chiacchierata, se nel caso coincide ci sentiamo dopo. Che non ci siano disguidi, siamo un'altra serata in compagnia, ci tiriamo, diciamo, un po' sul morale, aiutandoci uno con l'altro, almeno anche con le parole, già fa bene anche quello. D'accordo, ti auguro buonanotte già e buon proseguimento di serata. Sì, grazie a te, buonanotte anche a te, capito, soprattutto per domani, soprattutto. Se mi faccio anche volontari, sono ancora qui. No, niente da fare, a quanto fare no. Vogliamo già, mi raccomando. Ricordati, nessuno è perfetto, nessuna persona ancora ho conosciuto che possa fare pane per Ustia, guarda, compreso io, dunque non è arrivato a un certo punto ciccia, tutto lì, va bene già, buonanotte.